anche lei. Hello. Allora, ieri mi ha contattato Claudio tramite WhatsApp, lui è l'Isola Rossa. Ma l'Isola Rossa sì. E quindi rientra solo a fine settimana. E per quello non entra più. Lo stesso l'hanno chiamato, gli hanno detto non c'è più un'anima, né sul 10, né sul 20, ma non so nemmeno se siano entrati in PMR, penso. E quindi ha detto cercate di stare, di entrare, magari qualcuno brecca, solo che non brecca mai nessuno. E io ho chiamato lo stesso a vedere se c'era qualcuno. Mi stavo cucinando un'andata di ciobizza. Buona. Poi l'altro giorno quando c'eri tu, no? Poi avevi una telefonata e sei andato via, no? Subito dopo è entrato Giulio. Abbiamo chiacchierato un quarto d'ora, poi purtroppo è arrivato a mangiare. Non abbiamo più ripreso, ecco. Qualche sopravvissuto c'è, dai. Oggi non siamo andati al mare perché, mamma è tutta contro Giulio. Certe volte basta che tardiamo in mezz'ora e non ci vuole più andare. E che viva! Siccome è arrivato un pacchetto per lì, no? È arrivato alle 13 e volevo uscire alle 2:30, ormai è tardi. E domani deve arrivare a me un pacchettino, quindi... Almeno domani dovremo andare, se no pazienzami. Ci andiamo da Globo, ci andiamo alla piazzetta, qualche giro lo facciamo. E infatti. Andiamo da Falcone. Nasi, buonasera. Buonasera, buonasera. Ah, il duro scappellato. Anch'io, caro, tu sì che mi cammi in nevo. Ti sei dimenticato di me? No, tranquillo, sto aspettando... alle porte della Geccio, non mi sono dimenticato di te, anzi, la metà ci sto pensando di quanti giorni, io di tu, non solo a te no, anche l'Equitalia. Equitalia? Sì, lo so che hai esigenze, quindi io non dico nulla, quando puoi, se no pazienzami. C'è Natalino, il pasticciaio, anzi l'ex pasticciaio. Sì, ciao Natalino, saluto, tranquillo Marco, sto aspettando il bonifico, appena c'è il bonifico subito ti faccio pure Feli e Equitalia. È arrivato la lettera l'altro giorno, 200 o qualche cosa, di mondezza, sono fortunato, la 2012, mi manca quella di testando un altro rimane, che non mi è più arrivata la vita, è andata in prescrizione, 5 anni. Sì, Antonè, allora, tu non stai facendo nulla, andando al mare, nulla, vabbè che tu non puoi guidare, ma siamo di gente poi con i mezzi pubblici, a meno che tu, non lo so se puoi pigliare sole, per quella cosa che hai tu. Allora, per quella cosa che faccio io dovrei pigliare sole, il discorso è questo, se io vado a Sorsamona mi perseguitano le vespe, perché mi è capitato una volta, eravamo io, Marisa già la conosce, e cosa? Natalino si è pensato che la sua gradia di Alavando, io la Marisa, Natalino, io Marisa, Simona e cosa? E Daniele, in pratica. Sono andati prima a Trentino, poi a Sorsamona e non è cambiato nessuna cosa. Le veste c'erano, le veste mi sono tenute. Alla fine ho preso i pantaloni, mi sono infilati e me ne sono andato a casa. Ma le vespe platamona cosa intendi? Rotonda? Perché in spiaggia lì vespe non ne vengono, è raro che vengano. Solo se c'è roba da mangiare mi si fanno, ne può venire una. Ma se vai al Silis, dopo il settimo pettine, no? Dove sbocca il Silis, lì non puoi togliere un tramezzino che si riempie di vespe, è anche pericoloso, e ti inseguono, anche se ti sposti ti inseguono, se ti metti a correre è peggio. Io invece, infatti mi sono messo la crema che dopo prima, il Divonex, la testa, è la base di vasellina, e la vasellina li attiva, è come la bistecca quando la metti a cucinare, che è bello il sangue, è la stessa identica cosa. E gli ho detto a Daniele, detto, guarda, c'ho tre veste a prendere, detto, ma era una, attaccate i coglioni, poi erano due e poi la terza. E adesso va proprio andare dentro l'acqua, vediamo se spariscono. Sono stato dentro l'acqua, mi sono bagnato, eccetera, eccetera. Sono uscito, come sono uscito, tac, a distanza di 20 cm dal pisello. Allora gli ho detto, guarda, detto, tira dietro l'asciugamano addosso e detto, vediamo se se ne vanno. Un cazzo, mi ha dato l'asciugamano addosso invece di girarsi la compressa, si è girata appunto a lui in testa. Allora, gli ho pigliato i piedi, mi sono girato i pantaloni, tranquillo, senza avere paura, mi sono messo la maglietta, poi ho preso i piedi e me ne sono andato. Altri toppetti deve essere capitato questo. Ti parlo di 10-15 anni fa. Da quel giorno, ho visto che mi è andata al mare. Ehi, hai detto che vengono attirate dalla vasellina, ma è strano perché la vasellina non è dolce, non è zuccherata, no? Come può essere un dolce? Cosa si mangia la vasellina le vespe? Beh, può capitare, Antonio, anche ad annate. Certe annate sono più vespe, certe annate meno. Io ti dico solo che al Cilis non ti puoi mangiare un panino in pace, perché ti aggrediscono proprio. E se le scacci, se con le mani le vai a scacciare, si incacciano di più anche lì. Quindi lì bisogna stare molto attenti. Invece alla rotonda tu non ne vedi vespe, ne vedi una al massimo proprio, se proprio la vedi. Guarda, le vespe vengono attratte anche dalla birra, quando bevi la birra vengono attratte dall'odore, quindi sta succedendo questo motivo lì. Quindi forse io ci ho piantato al mare per quel motivo lì, non per altro, perché sembrava caso un coso, guarda. Certo, in pratica lì prima ce ne vedi una, ma tu penserai, ma sarà una cosa naturale, sarebbe qui, evidentemente c'è qualche anguria sotto in mezzo alla sabbia, niente. Una, due, e poi due, tre, poi quattro, poi cinque, alla fine no, non è una cosa normale questa. Capito? Solo a me, hai capito? Solo a me. Camminavo le vesti attaccate a culo, cioè attaccate a culo, avanti. Quindi tu immagini se mi avessero punto la geggio, in che condizione l'avrei avuto? Io dico che avessi immaginato un asino. E se ti pungevano la chicchia, come facevi? appunto, te lo sto dicendo perché eravamo io, Marisa e Daniele. Ho testimoni, questa cosa te la possono raccontare perché sono vere. Purtroppo mi è capitato così e a quel giorno mi ho detto no, mai più, e sto andare al mare. Prima l'ho fatta sentire a cosa, a Fiume Santo, a Fiume Santo, poi sono passato a Platamora. La Platamora è stupidine, la stessa indicatore, non è cambiato niente, quindi a un certo punto, perché ho fatto lo sbaglio di mettermi la crema il giorno prima, quindi ero pieno di crema. Mi sono messo a prendere il sole, evidentemente l'odore l'ha tirata e sono arrivato nel vento, non lo so. Tutto è capitato così. Avanti Natalino, e tu come va? Natalino si è parlato. Natalino, l'hai sentito Antonello? Aspetta che forse mi ha detto che sta cucinando una cosa. Già ritorna. Oi. Come ha detto mamma, gira è meglio l'inverno, almeno in inverno ti copri. Ma in estate, quando più della pelle non ti puoi togliere, cos'è che togli la pelle? Sì, è stato peccato che abbronzi, cioè i primi giorni diventi rosso con un coso, che peggio. Sai che peggio. Poi devi stare almeno un paio di giorni che quando vai al mare che non puoi prendere il sole, che sole è peggio, come tocchi. Per prendere il sole ti brucia subito la pelle, quindi devi fare lento e abbronzandoti. Poi una volta che ti sei abbronzato, che a me c'è in pratica abbronzato, mi spariscono queste macchie qua, poi dopo settembre è peggio di prima, perché io ho già fatto questa cura qui e non serve proprio a niente, anzi è peggio. Caspita, stavo guardando il consumo dati dallo smartphone. Io in 6 giorni, dall'8 al 13 sono 6 giorni, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ho consumato 831 megabyte, minchia, dovrebbero durare un mese, quando faccio quella ricarica, un mese, cioè 4 settimane, io già in 6 giorni sto finendo l'offerta, e dovrò fare quella aggiuntiva che paghi tipo 3 euro o quant'è, ti danno altri 2 gigabyte. Caspita, e ne sto consumando perché sto sempre controllando roba da comprare, apparecchi, tutto, sto guardando varie cose, poi sai, ogni tanto ci scappa qualche video. Ah, ho capito, quindi a voglia. Ma quella roba che ti ho detto come è fatta, no? Quel documento che ti ho detto io, il foglio video, non so come è fatto. Fallo, mi che ti serve fallo, non addormentarti Marco, fallo che ti serve. Guarda, appena fa un po' più di fresco, settimana prossima rinfresca e dobbiamo fare varie commissioni, comunque proverò anche quello. Cerca di fallo che ti serve quello, è una cosa utile, che serve per tutto, anche per lavorare, però non ti chiede nessun posto. Anzi, così oggi c'era su internet un lavoro, adesso facevo la domanda la mattina e l'ho fatto fare un email da una persona, vediamo se riprendono, se piano lavorare lì me ne faccio almeno o 6 mesi, un anno, adesso vediamo un po'. Bidello? No, pulizie e disinfestazione. Ah. Disinfestazione può essere interessante, poi per quella attrezzatura che ho io sei già a posto, per dire. Pulizie, vabbè, stanca di più, io con la schiena che mi canta non posso fare più certe cose, c'è poco da fare. Natalino, sei rientrato? Stavo togliendo le lenzuola dallo stenditoio. No, credo che stessi cucinando quella roba lì. Ti ha salutato Antonello, mi ha detto come va. Si va avanti, come vuoi andare. Si va avanti, guarda che c'è un coso, me la domanda se la vuoi fare alla Gena. Le pulizie, legge 189, se sei scritto lì la puoi fare. Non lo posso fare fino all'altro anno che c'ho il reddito. Quindi infatti che la domanda per l'assunzione non la puoi fare per niente, c'è il coso sulle poste lì, non puoi fare neanche la domanda all'ufficio di collocamento, nulla. No, che chiedono il modello ISE, cosa gli presento, il coso del reddito che ho lavorato e altre cose varie. Non lo posso fare, no. Guarda che il foglio video non c'era scritto in quel quando l'ho visto io. Quindi aspetta un attimino che c'è il telefono in casa, 2 minuti. Lì non c'era scritto Maroguni. Quando presenti la domanda di Nicara nei 25 punti se non lo presenti. Non so manco macchina. Manco lì. Ehi, a mia mamma mi. Ho job. Zoppa se la chiamo perché è un po'. E se non si opera purtroppo rimane sempre il dolore all'artrosi dell'anca lì. So che qua, mamma mia, c'è da temere con gli ospedali sassarigimi, sono dei macellai. Tu pensa, il direttore di ortopedia ha portato la suocera all'ospedale Marito, perché deve essere necessitata lui a toccarla. Fa sempre fame, c'è sta gattina, mi guarda, ogni tanto miagola, c'è bella teccia, mi, questa a Natale ce la facciamo, mi, tipo agnello, capito, ce la mangiamo, perché è bella grassa sta gattina. E allora ci sta bene nel forno con le patate? Aspetta, no, io preferirei tipo agnello con le olive, mi. Sta giudito un po' rugata con le patate, deve uscire favolosa. Aspetta, è bella seccia, mi. Poverina, te le immagini? C'è gente che se ne mangia i gatti. Io non avrei proprio il cuore. Poi, che coraggio hanno a scoiarli, prima ammazzarli, che io non, di ammazzare animali non ho il coraggio proprio, neanche un topolino ammazzerì. Poi li scoiano, mamma mia, che schifo, guarda. Io la carne la mangio, però l'importante è che non lo faccia io a uccidere gli animali. Infatti. Invece ci sono, già c'erano i vegetariani, no, però almeno mangiavano magari uova, coso. Invece i vegani, no, nessun derivato animale, quindi niente uova, credo niente burro perché deriva dal grasso animale. Allucinantemi. Addirittura hanno fatto i gelati vegani, cioè per questi che mangiano solo erba come le pecore. Il gelato vegano, tante altre cose. Poi l'hamburger di soia, cioè l'hamburger se non è di carne non è hamburger, che hamburger è un'altra cosa. Ma non lo so se queste scelte sono per moda, per fissazioni, per scelte religiose, non lo so. E che vuoi che ti dica? Marco, stamattina ho smontato un televisore a LED. Smontato un televisore a LED? Sì, ci sono in pratica 60 LED da una parte, rettangolari, piccolini, e 60 LED dall'altra, rettangolari, sempre piccolini, messi nella, alla base del televisore, ce l'hai presente tu nello schermo. Ecco, e poi ci sono, c'è un foglio scuro di tipo plastica scura, poi ci sono 1, 2, 3, 4 fogli normali, anzi uno è bianco, perché il primo è bianco, sembra riflettere la luce delle. Poi ci sono tutti gli altri fogli che riflettono la stessa cosa, tipo lente, e poi c'è un foglio scuro, che in pratica sarebbe quello che rimane blu di colore. Eia. Tecnologia adesso, che non mi ricordo nemmeno dove siamo arrivati, perché prima hanno fatto gli schermi, sempre schermi piatti, no? LCD, cristalli liquidi, ma tecnologia superata, poi li hanno fatti al plasma, che doveva essere non plus ultra, poi anche quello superato, poi li hanno fatti a LED. Oppure meglio dire, gli ultimi sono fatti tipo OLED, si chiama così, O-LED, e sono l'ultima tecnologia disponibile, mi pare. E ne presenti i LED dei telefoni cellulari una volta, quelli rettangolari? Fagli mezzo centimetro più larghi e basta, se ne monta 60, tutti in una fila. È come se tu prendi per Natale quelle LED bianche che si mettono in terra, in fila, e pigli una stecca, ne metti 60, agganci più o meno, lato meno, e tu lo metti dentro allo schermo del televisore e vedi l'immagine. Vabbè, così è riduttiva la spiegazione. Comunque rispetto al tubo catodico, mamma mia, tubo catodico vecchia concezione. Comunque purtroppo con dispiacere abbiamo buttato l'ultimo Mivar, l'ultimo televisore Mivar, che era funzionante, era solo fermo da un po', a tubo catodico a colori. Purtroppo era ingombrante, pesante, l'abbiamo buttato lì all'autoparco. Tanto ormai non ne usiamo più di quelli, dai, sono pesantissimi, eccetera, però era funzionante, non so se a te poteva interessare, ma ormai i tubo catodico sono vecchi, vecchia concezione, dai, non ne usa più nessuno. Va bene, abbiamo noi uno in cucina della Daewoo, che è sempre spento perché non abbiamo il decoder funzionante. E poi ci abbiamo un Seleco vecchio di 30 anni qui nel salone, davanti a me ce l'ho, però non c'è nemmeno antenna funzionante, capito? Bisogna rifare tutte le derivazioni, mettere il cavo nuovo, e al posto del Seleco che ce lo buttiamo, perché ce lo buttiamo, ci mettiamo un 28 pollici a LED. quando decideremo, perché tanto non c'è urgenza. Sì, certo. Se mi facevo io, ho fatto 10 pollici in garage. Sì, tre. Poi mi è rimasto un Philips 28 stereo con tubo catodico e poi c'avevo quello famoso che poi quando c'è il garage mi ha fatto culo a me, l'ho spostato, si è spaccato, poi pesava 30 kg stereo, 40-50 watt d'uscita e si attacchi di corsa, va dietro, era un video proiettore, era maxi schermo con cose, quello va bene, va bene. Purtroppo si è andato a fare culo, a un certo punto mi sono lasciato in garage. Poi, anche televisori e non lasci. Ah, c'è un figlio, sì. In garage, portato da una parte. L'unica cosa che non sto usando, guarda, adesso mi ha preso un amplificatore per casa, per stereo. Che non, qui non lo posso usare. Ce l'ho buttato in garage, 100 watt d'uscita. Se trovo qualcuno glielo vendo per casa. C'è anche delle casse, un impianto stereo col CD, con le casse su originali. Il tubo cattolico. Cattolico, vabbè, mi sono sbagliato. Vero, tu mi sei tu fuori. No, no, tu l'hai detto giusto, l'ho detto io, tubo cattolico. Che trasmesse solo roba di chiesa. Allora. Signore, va bene, grazie. A parte va bene, tutte le... se ti servono mi butta per il coso, per quello già ne ho, se te lo servono. Lui ci manca, vieni là, ci sei guardi. Per aspirare, capito? Natalino, dici qualcosa, io. Cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Che stanotte ne mangio quell'andata di lumacchine, castanè un'altra ora c'è piena, mi dai rigarabbi, allora stanotte un po' giù, una rete me ne giù gutto. Ascolta, e come le hai fatte? In rosso, in verde, gratinate, come le hai fatte? Oh, sono lumacchine di quelle piccole. In umido, insomma, come si dice, con l'aglio, no? Peperoncino. Ho capito, anche noi lo facevamo così, mamma mia, mi è succiata a me. Mi senti ringoni. Mi ricordo che c'era un manifesto, ho visto un manifesto, no, che c'era una gara di mangiata di lumacchio o lumacchine, non mi ricordo dove, e c'era scritto gara di succiatura. E tu Antonio sei bravo a succiare? E non dicevo il macchio, non mi sono mai piaciuto, ma il macconi. Bravo li faceva, il macchio, il macconi, anguille, carità. Quando cominciavo a togliere tutto quel liquido giallo, mi sembrava che ci avessi quella malattia che te la mangia la pelle sotto. Cioè. Ecco, per esempio io mangio lumache e lumacchine. I lumacconi e le monzette non ci riesco a mangiare, sono troppo callosi. E dalla a me le monzette a vedere se le mangio, il rugo qui da pieno. Quello è uno spettacolo. C'è di campagna te le fai. Poi cosa ha detto Antonio? Anguille? Mamma mia, io ho gustato l'anguilla arrosto, sai, a quei mercatini, quelle feste tipo i candelieri. Quanto era buona, e poi è bella, è grasso come pesce, buona, è buonissima, devo dire che era buonissima. Per carità, lascia perdere, non voglio sapere che ho mangiato per quella roba. Ma a te Antonio non piace nulla di quella roba lì, cosa ti piace? Cioè non ti piace niente, né sardine né sgombro, cosa ti piace? Sardine sì, sgombro per tanto, poi qua ti posso dire, i zirri, le onatte, i calamari. Ah già ti piace. Qui l'altra volta avevamo comprato delle sardine con salsa di pomodoro, no? Quelle nella scatolina metallica, me le volevo mangiare io quando capitava, le fate gustare al gatto, mamma, se le divorate, divorate, quantità. Quella gatta più grassoccia, quella piace il pesce. Si mangia il tonno, si mangia le sardine, lo sgombro. L'unica cosa che non mangia è il salmone fresco, sai, quello che vendono affumicato, no? Quello la annusa e non, forse sente odore di bruciato, no, di affumicatura non ne mangia. Sì, ma se la salsiccia affumicata è della magna. Come Antone? Se sento la salsiccia affumicata vuol dire che se la mangia. No, quel gatto non credo la salsiccia, non l'abbiamo provato. Ecco, il salmone affumicato, però io ho provato a dargli il filetto di salmone in olio d'oliva, aspetta se se lo mangia, dovremmo cazzo di allevarla salmone, a filetto di salmone, mica costa un bel, costa 2,60 e ce n'è poco poco. Sì, va bene, l'altro giorno mi ha chiamato Emanuele, mi ha chiamato, dice che l'ha chiamato il tribunale dell'Inps, ma l'ha chiamato. In pratica ci vogliono pagare ciò che non ha pagato USAI a noi, una parte, capito? Loro anticipano, si chiama contributo di solidarietà in pratica. Adesso stiamo dando la documentazione a questo avvocato qui e poi l'avvocato va direttamente lì all'Inps e consegna tutto. Speriamo che sia, così ti danno tutti gli arretrati, eh? È una bella sommetta, Sì, sono 3 mesi di stipendio, insomma, poi non so che cosa diavolo sia, cosa mi ha detto Manuele, e poi c'è dell'altro, mi ha detto. In pratica lì si anticipa, poi vanno lì da usare, dicono se lei è, io non c'ho niente, allora se sua moglie, se sono suoi figli, a lui non ce ne frega niente, capito? Gli pignono tutto. Sì. Comunque che l'onfio questo usai, ancora vivente, sì. È ancora vivo, guarda. E l'ho visto l'altro giorno, bello grasso anche. Non è capato, no? E se dovesse morire il debito che fa? Si azzera, ma non lo vedete più. No, ci sono i figli, cazzo, a ve la vai. Ah, passa i figli e quindi i debiti allora sono, non sono estinguibili alla morte. Spremi i figli, se schiatta lui spremi i figli. E guarda un po'. Quella roba che compravo da lui, a uno con una cosa non gli funzionava il LED, al televisione anche se lì qui c'era una riga di LED spenti, un po' difettosa era la roba, e non mi è mai piaciuto come negozietto, un po' ambiguo era, preferivo molto il più cineradio. Sì, gli anni 80 andava parecchio quel negozio, quello che c'era in via Montegrappa addirittura, andava parecchio anche quello. E poi era un fattore anche quello. Ha fatto la fine di checa, aveva aperto un altro negozio, poi gli ha fatto le pause e poi ha fallito tutto. Entrambi sono tutti e due uguali, non cambiavano niente. E Porcella, cioè mi ha lavorato? Porcella, quello in via Oriani? No, lì ci ha lavorato. La Porcella, cosa ci ha lavorato? Civica in moto, che abitava vicino a Natalino, faceva le riparazioni dei torrici, ha lavorato lì da Porcella insieme a, insomma di cosa diavolo era, un altro CP. Giulio. Ah, Giulio, esatto, sì. Negli anni 80 andavano quelli, Pintus, Scarpa, Porcella, anche quello tuo, Usai, insomma. A me è dispiaciuto per il Cineradio perché avevo un sacco di roba, io andavo lì a sbavare sui registratorini a microcassette, sulle calcolatrici, stiamo parlando anni 80, no? Tutte quelle piccole cose carine che aveva, radioni di vari tipi, ci ho comprato anche baracchini, tipo la FM500S, no, quello no, non sono sicuro, il Max con 7 l'ho preso da Cineradio, e come? Quello sì me lo ricordo, caspita, un apparato super, e tuttora funziona, cavolo. A proposito dei baracchini, l'altro giorno stavo andando su internet, ho messo apatici piccinesi, e me ne è uscito uno che fa tutti i 40 canali da 27, poi fa l'HF, la V, la U, 80 dollari mi pare costava nemmeno, 45 giorni per arrivare dalla Cina. L'HF sarà i soliti 29,50, ma l'hai detto già, mi pare. Fai 29,50, 144, 430 MHz in FM. Forse fa la 27, ma se la fa la fa in FM. E ci sono un bel apparecchi cinesi. Io, piuttosto che comprare il cinese, ho preferito Yaesu. Già lo sai, no? Yaesu, un nome e una garanzia. No, l'ho visto da poco, sono CB 40 canali AM/FM, ho visto. Poi c'era l'altro modello che faceva solamente CB 40 canali, poi faceva HF, V, V e U, hai capito? 80 dollari l'ho visto, un modello ma per dire tipo gli Yaesu di maniera, però schermo doppio, cioè in pratica ti stava la frequenza da una parte e dall'altra, bello faceva anche la trasponder, 80 dollari veniva, bellino, ma ci vediamo, lo guardiamo assieme. Non ne dovete comprare, non siete autorizzati ad usare quella roba. Siamo autorizzati sulle bande amatoriali, ma a noi delle bande amatoriali non ci interessa nulla. Ecco, lui toglie subito i cavilli. No, sai, perché giustamente se qualcuno, un radiatore ti può dire, quelli apparecchi per usarli ci vuole la patente di radiatore. Sì, ma la patente di radiatore abilita a usarli sulle frequenze amatoriali, ma a noi delle frequenze amatoriali non ci interessa, non ci interessa il PMR. L'EPD ci può interessare. Vabbè. Comunque l'acquisto, ricordate, la detenzione è solo comprare un apparecchio tenendo chiuso in scatola. Come libero l'acquisto anche la detenzione. Ma detenzione non vuol dire attaccare l'apparecchio all'alimentazione all'antenna. Quella non è detenzione, è uso. C'è poco da fare. Qualcuno dice che la detenzione è illegale, ma una volta che tu hai i soldi lo compri lo puoi detenere, però se lo attacchi all'antenna e lo stai usando, quindi vedi che tante menate. Comunque la 27 è l'unica che con un baracchinetto e un'antenna pare a produrre Salghero, altri PMR. Infatti. Il digitale ce l'abbiamo tutti, il digitale, poi ci compriamo le apparecchi che faranno tra poco, gli ultimi che ti vedi col video, ti vedi Natalino con bisogno in mano, dice, usa la brioche Falcone, usa la brioche. Eppure Paoletto, sei tornato di nuovo a Canica, c'era veramente di un'antenna. Tanto ormai nessuno lo piglia più in giro, almeno ci passa la vecchiaia, parla con qualcuno, solo questo ragazzo non fa nulla, mi sta a casa a fissare il muro. Lui bisogna essere lì, cos'è quello? Se fosse stato di a Canica ci sei andato e avrei dato anche l'antenna, avrei anche regalato l'antenna, era parecchio, per dire. Ma non so se ha sorso. Io penso che sia comunque lì con il fratello, con la sorella, capito? Se la gatta sta rubando la roba da mangiare al cane e lui se la sta guardando. Oh, si calmo. Che speriamo che non gli salti addosso adesso. Attacca, pompone, attacca. Non so, sono la parecchia, un attacco lineare. Io glielo attacco adesso, passo da questo, attacco il 2009, dominiale. Sono parecchio, non attacco quello di casa, 100 watt. Ma per la città, 4 volte passano, avanzano. Io non ne attacco perché non ne ho. Comunque il vicino non ha più detto niente, no? Non ti ha più telefonato o bussato, no? No, la figlia, mia moglie, gli ha detto cosa. Evidentemente non è vero quello che mi hanno detto, ma io me ne sbatto. io sono in regola. Se viene a rompermi le scatole c'è l'esposto pronto, già lo sai. Cosa ti ha detto? Dillo a me, dimmelo in WhatsApp. E adesso non c'ho il telefono, già c'è lui con un altro momento. L'hai perso? Te l'hanno rubato, te l'hanno sequestrato? No, ce l'ho ma non so dove l'ho messo. Ma hai spento pure, no? Beh, è ovvio. Ehi, succedeva anche a me alle volte. Chi è che vuole entrare? Avanti, buonasera. Ehi, buon viaggio. Allora, battuta, ma non vogliono entrare. Allora, cosa vuoi che ti forzi? Come diceva Antonello, cosa vuoi che ti forzi? Ti sforzi al limite. Forzato. Adesso ho messo in attesa il getto. Sta scaldando. Comunque ho fatto una ricerca più approfondita di quel caricabatterie da moto macchina, quello che voglio io, quello stretto e lungo. È un ottimo apparecchio, però chi l'ha comprato ha detto che molto raramente lo portano da Lidl, raramente, e quindi mi sa che rimango fregato. Poi non voglio quello grandetto, voglio quello sottile. Purtroppo io con questa moto sono bloccato, ma non posso caricare la batteria, quindi non so se è rotta, se la devo comprare. Va, questa moto mi sta buriandomi, mi sa che la lascio ferma, faccio prima. Adesso la ribusa è morta, 2500 russi, e l'avevo fatta caricare da Mattesi. Ehi, a meno che quando vado da Oceana, quando sono in passaggio, poi la porto da Ugo De Pau, me la faccio caricare da lui, che era il mio tecnico, mi nomi le corde vocali. Era mio meccanico di moto, tutta la carica se gliela dai. Poi se tiene la carica bene, solo vuol dire che è andata la batteria e non serve più. E va ricomprata, però la voglio uguale. Io ha una sigla particolare, è di tipo sigillato, aveva ragione Claudio, non è a tappini per mettere l'acqua distillata, è sigillata in fabbrica. Peccato, perché quelle batterie di tipo più vecchio con i tappini erano più versatili, perché se tendeva a diminuire il livello dell'acido, aggiungevi acqua distillata e la batteria la potevi un po' rinnovare. Invece quelle, una volta che si asciuga l'acido un po', che c'è un piccolo foro di sfiato, alla fine ce l'hai buttata. Non costa molto però, su internet costa sulle 40-45, intorno alle 45. Certo, se la compri a Sassari te la batteria in paga, se la compri al meccanico te la fa pagare 80 euro, capito? Ci guadagna il doppio. Sono senza manutenzione quando sono sigillate, ma io le aprivo lo stesso, ci sono i tappini sotto quel nastro che c'è. Sì, rompendo il nastro o quella chiusura di plastica che c'è, da me c'è una chiusura di plastica. Volendo ci sono i fori per... solo che... alla fine perde l'uso di... cioè non è più una batteria free, libera da manutenzione una volta che la scassini. E vabbè, chiederò cosa conviene fare, però lo voglio uguale, stessa marca, modello, non voglio mettere roba raffazzonata. Comunque adesso ci stiamo godendo le vacanze, quindi me ne affutto della moto. Natalie, ecco, come sto uscendo portando? Tutto fatto, sì. E me l'ho raccontato, aspetta. Russi, Zaffero, famiglia. Ti ascoltavo anche con 4 watt, o quanti erano? E grazie a Dio siamo uno a fianco all'altro. Per modo di dire, no? Siamo in città, quindi pompare, che senso ha? Comunque di questo foglio ISA voglio sapere qualcosa in più, Antone. Magari ti faccio una telefonata. E come ti accompagno io, ti fai fare, ti accompagno al caffè, dopodiché ti fai il foglio ISA, non ti preoccupare, per questo ti serve. Quindi non preoccupate per quel motivo lì. Non me lo usavo spicciti, ci hanno trovato i tondi tondi. Ora. Ciupicciu. Sì, la paglia è a pompa, sì. Almeno incendi a quello vicino a casa tua, mio. Bastano 10 minuti di musica, gli metti un po' di musica, gli metti bene, questo incendiare il televisore, di cosa, il ricevitore digitale terrestre. Così me la so comprare nuovo. Ma è bello anche se se la mette nuovo, non risolve nulla. Bisogna che si faccia l'antenna come si deve. Ecco cosa c'è. Perché io vedo che la mia, cazzo, ho messo le antenne nuove ed è una bomba. Poi non disturbo neanche quelli di vicino. E lui ha l'antenna ai suoi visi, chissà che cazzo gliel'ha fatta, qualche incompetenza sicuramente, tipo l'amico di Marco, che aveva messo positivo e negativo tutto in uno. È la pubblicità Marco. Ma non è Marco che l'ha messo, è l'amico che l'ha messo. Marco ha constatato quel danno che ha fatto quello là. Ah, e beh, logico. Da Rodrigo. Ma che Marco è così, già le conosce, già sa come farle, capito? Io ho fatto così, la volta che avevo problemi di qui, ho smanettato tutto, ho attaccato il gigetto, dopodiché, la ragazzina non si voleva più un cazzo, in tutto il condominio, tutti hanno bruciato il coso televisore. E gli sta bene, che se l'hanno dovuto comprare nuovo e fare l'antenna come si deve, sennò non ne chiavi i bidi. No, Antone, dimmi una cosa. Non ho capito cosa ha detto la figlia di questo, se mangia l'antenna nuova. Non lo so, Natalino cosa ha detto? Ma Natalino volevo dire. No, se non si mette l'antenna nuova è inutile che si compra il televisore nuovo, perché il problema rimane. Ma in poche parole, quando hanno cambiato l'antenna, tu disturbi ancora, cosa ti ha detto la figlia? Ma che non ne hanno cambiato, se li disturbo non ne hanno cambiato l'antenna, la gabigli. Cazzo, se no. E poi cazzo, avranno quelle antenne vecchie, ferruginose, che non fanno massa, chissà cosa cazzo, il cavo ci vorrà buttato, boh. Quindi non eri sicuro che avesse cambiato l'antenna, era una supposizione. E a me non mi stanno rompendo le balle, a me mi va bene così. Mia moglie manco risposta là. Cazzo. Perché se vengono a rompermi le balle è la volta che gli faccio l'esposto della. È fatto, è pronto, pronto da consegnare in questura. La questura faccio per conoscenza la finanza di San Bagato Lugano. Beh, se ha pagato la luce ha pagato anche quello, cosa deve fare la finanza? Ormai il discorso è quello, non può dire che non c'è un televisore in casa, no? se si appaga la luce, quello può dire una negra in affitto, per dire, in quegli appartamenti a stasera il vecchio, che ormai il problema è quello lì, c'è in pratica la negra, quello lì va in affitto 3, 4 mesi, 6 mesi, quello che sono paga Rai, perché non le paga la parola in casa. Sì, ma sono quelli che ci sono quelli che se la fanno togliere dalla bolletta, hai capito? E non le pagano. Dichiarano che non ne hanno il televisore, non le paga, né il disabilità né il televisore di Mattessi, non ha compreso. Gli avviso chi si buvo. poi magari non lavavano mai bagagli. Cosa cazzo ne so qui? Pensano ancora che... Ma chi è che nel 2017 dice di ancora di non possedere il televisore? Io? Che ne so io? Io per esempio non ne posseggo e non ne pago di canone, perché io il televisore non ne posseggo, lo paga mia moglie perché lo possiede lì, anche se il televisore è mio. Vabbè, ma se fossi stato solo al monte, avessi pagato la lettura, ci pagato anche tu mio. Siccome io non sono intestatario di nessun impianto elettrico né televisivo, quindi non lo pago, lo paga mia moglie perché io sono qui, quindi lo paga lei. Ne posso vedere se no via televisione, sia da pagare a Lucano meglio che in regola. Dritto. Mi la buona anima di Dulci Mimmi. Mimmi a Giulio mi. E beh, buonasera mi. Ma tu giù. Ciao Natali. Ciao Marco. Anche Antonello ci sta Antonello. Ehi. Ciao Frano, caro, non ti preoccupare. Se mando direttamente nella bolletta. E non sfugge da lì. Ehi, ma vi può essere qualcuno attaccato agli Sant'Anna che non ne baga? Avete la giudita tutta. Ehi, vabbè, vanno a pagare la corrente, pulisco. Sento si può attaccare, forse il tento bastone alla parte Sant'Anna. Però occupavo di diagnosi, però con il tento in testa io sempre. Per cui, se tu vorrai la televisione, o non mi lasci che ti mandami un canone. Come fate a dichiarare se non ce l'hai, ma devi fare tutta una procedura all'ufficio delle entrate? No, sì, no, non si sfugge più per il canone, fregatene. Solo che nei magazzini che si fa il suo panne, bottega, non me la mandano, no, perché un magazzino lo sanno che non c'è la televisione lì. Ma le case di abitazione, di servire abitazione, state tranquillo che io arrivi per forza lo canone, non è mai nulla. Infatti a me mi arriva, lo paga mia moglie, intestata mia moglie, no? Il canone, è logico che lo paghi nella bolletta elettrica, dell'elettricità. Beh certo, poi uno può anche utilizzare una sola antenna per mille televisioni, non c'entra niente, il canone ti arriva sempre, perché se un contatore è un numero attivo solo specifico, per cui 10 contattori, 10 numerative e dunque 10 bollette. Ehi, già lo so. Già lo so. Vabbè, comunque a me non mi hanno più rotto le scatole. Poi facciano quello che vogliono. Se vengono a disturbarmi vuol essere esposto, io ce l'ho già pronto da consegnare, già scritto e tutto, è firmato. Ok. Tu non mi hai voluto una retta a me da un momento quando ti ho detto metti con l'antenna e non ne fai ti vuoi. E tu invece hai fatto a capodoglio, devi da dove un'altra antenna e allora le conseguenze sono quelle. Comunque, andate bene. E vabbè. Però avrei fatto TVI lo stesso a quello lì, perché quello lì c'è l'antenna marcia evidentemente. Ma voi andi chi ci se ne andano quadro direttamente. Io dico che non è detto, non è detto. Dimostrazione a 2 metri di distanza, a 2 metri, sai cosa vuol dire, anzi di meno, che a 2 metri, di meno, tranquillo e pacifico. Per cui, vabbè, come è fatto, è inutile rimpiangere anche troppo sopra, perché intanto non cambia niente. Ma se la mia è attaccata all'antenna mia TV e non la disturbo, come si spiega? Quello non vuol dire un granché, dove ci sono i radiali può cambiare, anche a distanza, non c'entra proprio un bel niente quello. Mentre invece quella che ti avevo detto io, vabbè, tu hai voluto riprendere la cosa. È anche un modo, è giusto anche risparmiare, però risparmiare significa avere poco. E sì, vabbè, dai, a me mandare così. Tanto per quello non ne vale manco la pena, né? Non c'è più nessuno. O già chi ha giù già Maduro, io mi ha ripreso Marco, non sta entrando più nessuno giù. Sì, è andato, è stato per essere io chiamando. A me come mai la sera, la chiamata di 40 punti, non ha risposto, ma comunque, evidentemente, non è più voglia nessuno, per quello per il figlio. Adesso cosa sta facendo? Scommetti che sta prendendo, Marco. Sicuramente la sarà prendendo e quindi non si può disturbarlo. Tu intanto a quest'ora, per cui dovremmo dire che è così. Io poi l'ho chiamato tardi, la già vende lui, e che se né a lui né a nessun altro. C'era un po' di preparazione, sono andato in quella frequenza un pochino più alta, ma in particolare una chiamata, una risposta e è risarrata, tutto lì. Andrà bene, Neda. Vabbè, dai, io adesso me ne passo in quei retti che sto facendo cosa qua. Uia. Già ci sentiamo un'altra volta giù, mi ha fatto piacere le due chiacchiere, c'era anche Antonello qua. Vabbè, salutoni sia a Marco che a Antonello, anche là, io me ne passo in quei retti, alle prossime. Ok, ciao, alle prossime, dai. Grazie anche a te, là, anche la Tina. Ci sentiamo alle prossime. Va bene, allora, ti comunico che Aru ha perso la maglia gialla. Non so se senti fuori tu, del ciclismo. Allora, Aru, il nostro saldo è maglia gialla al Tour de Francia. Va bene. Ciao, Zani, alle prossime. Allora, 1, 2, 3, prova, sessione Giulio, Giulio cambio. Sì, avanti. Buonasera Giulietto, come va? Ciao Maurizio, andiamo bene, e tu? Tutto ok. Ma stai usando? Se mi stai usando, come la potrei usare bene, ma sento un sottofondo con di qualcosa, la scarpetta, no? No, non uso mai io scarpetta. Quando c'è cosa sto usando? 4 watt. E ok, allora tutto a posto, sì. Tutto a posto. E niente di urgere, no, sto scherzando. Tutto bene, Mari, e tu? E io tutto ok, adesso sto iniziando a trovare, sto appando perché ero già parecchi giorni, per non dire più di un mese, che dove c'è la stazione si è trasferita mia figlia perché sta facendo lavori in casa, comunque si è trasferita qua giù, dunque ero nato lo scatto, vabbè sono io e non mi piace invadere a scendere giù a rompere le scarpe, tutto qua. Adesso è tutto fatto e ha tutto sistemato e siamo in nostro hobby, diciamo, tutto qua. Ci avevi visto l'altro giorno, sì, o ti stavo chiamando? Sì. L'altro giorno, quando sei passato che stavo lavorando, avevo visto già e tu, già lo so. Comunque mi stavo dando bene, no? 9:17, 9:18, là. Siamo lì. Il segnale tuo, il buono. Nonostante che io sto uscendo con un dipolo abbastanza basso, lì. Un metro di più. Figurati, sta arrivando le 30 e passa qua, vabbè già siamo vicini però, se c'è per forza diciamo, là, dai, non c'è nessuno, no? No, c'era Natalino poc'anzi, Marco sta tornando, c'era anche Antonello Pomponio, ma hanno chiuso, Natalino doveva fare cosa? Sì, una auto costruita sto usando, una auto costruita, un dipolo in verticale auto costruito, tipo gamma, ed è dal pavimento, il tubo passa dal pavimento, e l'antenna è piazzata a un metro dal pavimento, non di più. La devo infatti mettere dove di solito lo metto, ma dovrei salirla di almeno 5 metri, 6 metri, a posizione dove la prima. È un terrazzo, quando l'ho messa per accordarla, e così lì è rimasta. Visto tanto che c'è nessuno, è inutile fare dei lavori. E caspita. Vabbè, messa così, vabbè, qui diciamo che siamo vicini, però se superi 9.30, 9.30 superi proprio abbastanza bene, con potenza e forza. No, io invece la turbo non l'hai piazzata, non ancora? No, non l'ho piazzata, l'ho messa così, nel terrazzo, così, tanto il terrazzo è lungo due lati da 8,50 m, per cui io lo stivo centrale l'ho lasciato piazzato, che ero mai 7 metri, più o meno, là, e l'ho lasciato piazzato, l'ho messo lì, tanto su una strada, per cui da non ce l'ho presente, così non... Se decido poi di ripiazzarla e lo stivo è già pronto. L'avevo già fatta, l'avevo tutta ripristinata, tutto a posto adesso. Solo montata, ma non, a parte il fatto che c'è caldo, eccetera, ma poi non mi sta andando nel locale, perché con questo tipo che sto usando adesso vado anche col continente, per cui evidentemente va bene, tanto siamo 4 gradi. Non va bene, va benissimo giù, va troppo bene là. Ecco, e Dio mio, io devo lasciare questa cicciami. Ok. Marco ha chiuso, Antonello è incasinato, ma solo il Antonello c'ha i suoi problemi, va bene, Claudio, Claudio sarà al trabacco. E va bene, dai. Vai giù, dove vai? Ok. E Claudio sono un sacco di tempo senza sentirlo. No, ma lui è andato a palazzo con la casa della figlia, si vede che sta lavorando lì la sera, quando esce magari va a completare la giornata, sistemare allenamento, tutte queste cose, dunque è impegnatissimo. Per cui prima le cose importanti, poi i dubbi ma... È giusto, prima la cosa importante, come ho fatto io, prima di interessava per terminare i lavori che la facevo dopo, questo è un hobby. Quando sono 10 minuti, accendiamo, parliamo. Però, tutto qui. Va bene, anzi no, va benissimo. Dovrebbe entrare da Chiesa, ma forse è troppo presto. Ci siamo visti stamattina e stasera anche. Hai dovuto entrare più tardi, ma o è ancora in campagna, adesso non so anche che ora è. Che ore sono? Le 7 ci sono, Giulio, no? O è troppo presto? Sì, sono le 7 e 8 minuti. E 9 minuti, le 7 e 9 minuti. Per cui sono già passate le 7. Sì, l'ho sentito qualche giorno fa, in PMR, però, Battiglio, l'ho sentito. Stavo facendo quando con Gommino mi arrivavo più forte con l'antenna, davanti all'FM. Andava molto bene, sia nel radio che nel segnale. Infatti c'era anche Gian Maria lo stesso, ha detto le stesse cose. Usciva più forte con il gommino che con l'antenna esterna, quella che gli hanno autocostruito. Ah, ok. Ecco, lui sinceramente non è andata molto bene quella che gli hanno fatto, Lui è stato un po' sfortunato. Due volte io l'ho rifatta, ma mi sembra proprio che non va bene. Poi io ce l'ho piazzata sopra e per un momento non mi posso lamentare, per il momento, a voi, abbiamo il gran tempo, lo dico. Ok, certo. Tu quale hai messo? Quella attiva dritto così verticale oppure quella direttiva hai messo? Quale hai messo? No, ho messo quella stilo normale, senza niente. No, la quella che tu hai dato la volta, è piazzata, è arrivata forte, va benissimo. Solo che ciò devo, non mi sono preoccupato, ce l'ho nella veranda, diciamo, sotto, e mi devo allungare il capo, tutto qua, per arrivare qui a stazione. Comunque, c'erano ieri sera, c'era la staccata e va benissimo. È puntata verso il salto e va bene, ma Giulio. Ok, io invece non ci sono problemi. Sì, no, io non ne uso. Se non mi prende l'antenna, ce l'ho, volendo potrei utilizzarla. Ma uso un gommino, mi è più comodo, così mi sposto anche qui dentro casa. Va sempre bene, naturalmente quando mi sposto si abbassa un po' il segnale, ovvio. Però se mi metto in una posizione che ormai ho stabilito e da lì esco meglio, è come uscire praticamente con l'antenna esterna. Eppure il suo gommino originale, non senza stare lì a prendere il suo fine, finetti, invece che il gommino ce l'ha in tasca, la radio ce l'ha in tasca, ti metti l'auricolare, c'è anche il coso, c'è il microfonino, per cui va benissimo, no, non ci sono problemi. Ma... come ce l'ho io, c'ho il microfonino con l'auricolare, sì, esatto, ti metti la in tasca, c'è l'auricolare, ciccia, fai tutto quanto. Io c'ho la quarantennina che sta sul tetto, ma... fino a quando va, se no dopo mi lo dice anche Inter, sui 30 euro con la contrera di Ari, tipo quella c'è Macchisio, so, forse c'è anche tu quella bianca contrera di Ari, che va bene lì. Ma adesso questa, quando si sta ce la prendiamo? Sì, beh certo, ma io ce l'ho messo 8 anni, forse anche di più, da quando prima l'avevo messa a prendere il servitore, no? Infatti quando la uso solo per il servitore, no? Perché mi fa tutte le frequenze, capito? Per cui va benissimo. E intanto è VU con la mia. E poi è anche un'antenna segna, insomma. Ma la uso nel servitore, no? non serve per altre cose, no? Anzi non la uso proprio per altre cose. Non è il caso, ecco. Sì, vabbè. Sì, ma così. E ti stavo dicendo, no, non c'è più nessuno la sera. Tante volte poi c'è chiamata, non risponde nessuno. Qualche volta mi sento, ma a cosa? A Giovania, sta in PNR, qua solamente, però. Poi quando entro insomma, 10 minuti, poi chiudo e basta. Esatto, vabbè, io ero assente già un mesetto, ero assente quasi un mesetto, poi perché qua in effetti non, per essere in Valenti non scendevo neanche, figurati. Io stavo scendendo, non c'era nessuno, zero. Poi si è acceso e ho sentito chi c'era, Natalino, ma dopo mi ha chiamato delle toppe e ho lasciato tutto e sono fuori a giocare con le toppe. Tutto qua, se no non c'era nessuno, nessuno. Sì, infatti la gente forse se ne sta andando a mare la sera, con quattro bagni in mare, oppure quattro passi a fare una passeggiata. Io tutte le sere qualche chiamata la faccio, ma se non rispondo nessuno non è che sto lì attaccato alla radio. Adesso stavo guardando la televisione, stavo guardando un film western. E c'era la parità acceso, e come mi ha chiamato l'ho sentito, perché poc'anzi appunto stavo parlando con Natalino, e l'avevo lasciato acceso, col volume basso, e mi ha chiamato tu, ma comunque, no, già va bene, dai, poi io, i tempi si sono allungati molti anni, si può immaginare, 1972, 2017, 45 anni e 7 mesi, 8 mesi di radio, per forza a un certo momento si stanchi, no? Sì, grazie, volevo special entrare. Sì, non è poco, due giorni domani, figurati, io ci avevo 12 anni e c'avevo una zodiaca 5024 e stavamo usando pure 49 e si usava una 500 e una 600 e mi aveva battezzato come Rosino e Mario Mau insieme a Gabino Passerotto. Ok, avanti che ci vuole vedere, buonasera. Buonasera a tutti, Marco. Ciao, mi pare Squalo, ciao Giulio. Io poco fa ero con Natalino e Antonello, mi sono dovuto allontanare e adesso sto per mangiucchiare qualcosa. Dai, un saluto a Giulio, un saluto all'altro amico, mi pare Squalo, ma non sono sicuro. Avanti Giulio. Ok, ciao Marco, no, non è Squalo, è Marino, Rosino, il nome attivo di Marino è Rosino. Squalo è Tore, si chiama Tore, ma... su questo canale non l'ho mai sentito, non si parla qua sempre sul vento. Ciao Marco, Natalino si è venuto là, poc'anzi andranno a fare qualcosa, non lo so. E quindi vai, per salutare a Marino. Ok, riprendo io, benissimo. Ciao Marco, ben sentito e... hai sbagliato il reattivo, Squalo e Tore, io sono Marino Rondino, bene. Buon appetito, si sta merendando. Cosa c'è? Un bel panino, una bella focaccia, spezzate le gambe, Marco. Sta pranzando, lui pranza quest'ora, pranza. È un po' particolare Marco, col pranzo, a quest'ora lui pranza, vabbè, comunque. Lasciamo pranzare poi già dentro. Ti stavo dicendo, ma come è cambiato? Il microfono è cambiato nel baracchino? Perché questo microfono Cristiano, come ti sentivo prima, Tutto ho cambiato, c'ho anche l'apparecchio, sono domani un S9 però, Giulio. Caspita, appunto, quello è la differenza, già che è molto anche, prima non si capiva poco, era molto cupa la radio, adesso è abbastanza comprensibile, dai, per cui va bene così. Meglio così, meglio così, un'antenna per la moto, ma 5, ma ricordo, no, così. Esatto, sì, c'è ragione, sì. Okay. Oh, Ioni, e tu stai usando? Sempre il solito, Giulio? Sì, e in questo momento sto usando il K, sto usando, 5 watt, va benissimo, lo uso sempre così. Ogni tanto lo metto in funzione, l'altro me ne darebbe qualcosa in più anche, cioè questo me ne darebbe anche 150 modulati, sempre questo, ma io lo uso così, e l'altro invece me ne da 8, 7, 8 watt, il baracchino proprio, capito? E dunque, ma stasera ho voluto accedere questo per usarlo, perché lasciarlo sempre fermo non è che va bene, meglio farlo usare ogni tanto, accendere e fare lo scambio, se non si blocca, io ho avuto quando ero in via Cosi, via Comando, adesso non dico se ho il 140 o il 440, appunto, per essere qui, l'ho dato, perché intanto inutile, diciamo, fermo, per essere bloccato meglio dato, tutto qua. Marco, buona benedetta, Marco, benissimo, avanti giù. Ok. Sì, aspetta che do una controllatina del tracciare, scusa un attimino, che vedrai la portante che accordo, se c'è necessità. Tutto a posto, Maris, tutto a posto. Va bene, questa antenna è stata tarata bene, per cui va benissimo. Va benissimo, lascia questa giù, lascia questa, sei a posto. Ti volevo chiedere, quella gastronomia sopra il tuo negozio, come si chiama? Non sta più entrando, come si chiama? Valerio si chiama o no? Saverio si chiama, e lo vedo tutti i giorni, anche stamattina l'ho visto. Stavo preparando per andare a pescare, ieri si è preparato, parametro si è preparato. 100 anni mi sembra che ha messo, fa queste cose, poi parla il pizzaiolo, c'è il pizzaiolo, una buona pizzeria con fratello lì in Zagna Fredetta, fratello sta aperto, già mi aveva la pizzeria Andrea, ti ricordi Andrea, nell'oceano, non aveva la pizzeria in Zagna Fredetta, poi in quel locale lì c'è la pizzeria del fratello e lui lavora lì la sera. Ok, Santomello, ben sentito. Sì, l'ho visto domenica, siccome sto lavorando la domenica mattina, e questo mese metto 4 le domeniche in questo mese qua. E sto passando di via Soletta, domenica mattina ho visto che c'è un letto a pizzeria, c'è lui che sta facendo la serranda. Ok, ho visto lui pure, ho detto, ma questo lo conosco, il lettore sta dicendo che è fratello di Salvini, ok. Avanti, Antonello. Ciao, saluto a tutti e due, ben ascoltati. Come ascoltate il segnale radio, buono? A me è buonissimo, avanti su. Bene, a voi, andiamo bene, Antonello. Un po' vabbè, io sono veloce, sento così qua. Però il segnale è buonissimo. E vabbè, forse è appena stato, no? Aspetta. Sono un po' che non usavo lo saggeggio. Non lo faccio scaldare nel tanto. Sembra che stasera non lo scaldo a bagno. E poi che lo muove, Giulio. Quella è la sua modulazione, Antonello. Tutto a fare un commento rapidamente, ti stai riferendo al rumore che sente qua. Ho acceso il vento adesso per farlo. Cioè, per scaldare, dai. Anche se non c'è bisogno, perché l'antenna. Antenna, il dipolo, canna da pesca, l'ho accordata bene, per cui già va bene. Però ho acceso anche un autonino che tu della computer, qua ce l'ho già da anni, e qualche volta quando necessita faccio così, soprattutto le stanze, l'attacco, anche perché non può andare di altre mesi, capisco, altre 9:10 e 9:12, dai, altre, per cui va bene. Sì, va bene, grazie. Marco, lo staccato adesso, sono liscio. Adesso mi sono 10 punti S, adesso sei 9:02, 9:03. Però tieni presente, ripeto, che io sto scendendo con un tipo in verticale, però è tipo canale a pesca, ed è nel terrazzo, racchiuso da quattro mura del terrazzo, ed è il tipo parte da un metro da terra in su, capito? Così ho altro, per cui io devo segnare tutti ultimo. Io da te come sto arrivando, con 5 watt di potenza. 9:15 da 5. Ok. Sì, io ho 5 watt giù. Sto usando 44 per l'anno in questo momento. Per cui sono 5 watt sinceri questi. Ma vuol dire che esce bene, sei perfetto di segnale radio. E anche Marco Conda, avanti Marco. Sì Antone, adesso sei più chiaro, prima eri un po' saturello leggermente, insomma. Quando si è lisci è sempre più chiara la modulazione, dai. Avanti l'altro amico, sì, io l'ho già sentito l'altra volta, era già entrato qua, avanti, no, mi sfugge il nome, c'ho l'Alzheimer. E tu c'hai la cosa in bocca, per quello, Marino, Marco, Marino, avanti Marco. Ehi, dai, riprendi Marino. C'è sempre caldo qua, io sono praticamente in slip, anzi in boxer, diciamo, col ventilatore a piantana, ma sempre... solo in acqua si sta bene, mi viene voglia di riempirsi la vasca e stare sempre nella vasca, mangiare lì, guardarsi la televisione lì, nella vasca. No, io invece sono per il zona, avanti giù. Ok, avanti. Senti, ti ho detto che con la radio ho saldato un pochino, ho aumentato anche un paio di punti e ho perché è quasi 9:20 adesso. Va bene, la voglia. È stato bene, ma l'hai preso nuovo oppure di seconda mano, lo puoi dire, se puoi dirlo, mi sembra non fa niente, scusa l'altra domanda. Già ci vediamo verificare Giulio, già ci vediamo verificare, avanti Antonio. Via, ok, non sei quando bene, a voglia, ma Marico. Bella radio chiara, perfetta, in 5. No, l'unica cosa che bisogna fare è un coso, bisogna chiedere qualche microfono o qualcosa per fare quel Texas, perché lo voglio modificare per fargli uscire una modulazione chiara come si deve. È l'unico Texas che lo sento tutto un buffato, sembra cupo e mai l'ho sentito così un Texas, la verità. Mi ha preso qualche modifica, uno di questi giorni, se mi capita... gli faccio qualche modifica, li faccio, a vedere se esce meglio in trasmissione. Ok, benissimo. Va benissimo, avanti Marco. Ehi, sì, Lafayette, Texas, me lo ricordo. L'ha avuto anche a Paoletto, capito, Falcone. E mi ricordo... usciva abbastanza bene, per non dir bene, lo chiamava il Texas lui, non riusciva a dire la X, diceva Lafayette Texas. Ma è ancora vivo Paoletto? Non mi sbaglio. Sì, è vivo, perché è un ferro, dai, poveretto. È un po' ingrassato, capelli più ingrigiti, un po' imbambolato l'hanno visto, magari. Poveretto, questo ragazzo... a parte le cose del passato, no? C'era quel vischietto con i ragazzi, non credo che faccia molto durante la giornata, ci vorrebbe qualcosa per distrarlo. Proprio un baracchino ci vorrebbe, perché ormai sono passati i periodi in cui lo prendono in giro, almeno ci passerebbe un po' l'anzianità in compagnia dei vecchi CP. Poverino, io già un anno l'avevo conosciuto, l'ho letto, la quale salvo io, vado là, figurati. Lei o Giulia? Io la voglia. Sì, mi va. Scusate, mi va porto a casa della sorella ormai. Tranquillo. E oggi io penso che abbiamo fatto tanti anni, io credo meno, se non c'è la nazione, siamo lì. Io penso che abbia più o meno quell'età ormai. Ma lui è da Corso con la sorella, così mi ha detto? Da Corso con la sorella, abita a casa della sorella, a Corso, no? Da quando era morta la madre, lui sta vivendo con la sorella, a Corso. Ho capito, sì. Io, per me è Buoni, per me è una sessantina, per me ce l'ha Buoni. Era già grandetto, quando c'era lui, figurati, avanti, Antonello. Vabbè, un macchina possiamo anche regalarglielo, un VHF, boh, parlare tranquillamente in VHF a parlare, cosa? Almeno si riflette un po', ascolta, oppure un VU possiamo regalare. Ci sono tanti quelli cinesi, 60 euro, non troviamo quanti ne vogliamo. Ma intanto noi glielo portiamo a casa, sorella. Se per quello lui sicuramente ce l'ha ancora, mi guarda il bacchino, lui ce l'ha cercato. Però la sorella non glielo portiamo a casa, glielo avremmo già visto da tanti anni, perché lui lo voleva trattare da solo. Ma la sorella non glielo permette, non glielo permetterà mai. Lo sappiamo che è così, o Antonella. Vabbè, magari... Vabbè, adesso è con la sorella, magari lui cambia cosa e se ne va con... nella casa che dispetta lì vicino al fratello e su in pratica già lo sai dove c'è l'azienda e può tranquillamente stare lì, si piazza l'antenna, prende, parla passa le ore per dire, ma ormai è finita l'era di come una volta che lo prendevamo per il culo che lui faceva le cose, magari è cambiato, adesso entra tranquillamente, buongiorno, buonasera, fa la sua parola, proprio gli azienda andando in giro per dire. Un attimo che prendo io perché mi stavo... vi dovrei lasciare che mi stavo chiamando bene forte. Ok, ciao Giubello, ci sentiamo Giù, grazie della chiacchierata. Ciao Antonello, ciao Marco, ritorni Giulio e magari ci sentiamo più tardi se in caso. Allora, avanti Antonello. D'accordo, ciao Marici, ci sentiamo più tardi allora. Buona faccende domestiche, buon tutto, alle prossime. Ciao Marico, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo, dai. Fatti vedere quando sei libero, tanto la mattina già sono sempre dove tu sei, no? Almeno dalle 10 fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza sono sempre lì. Tanto cosa faccio? Vado, almeno lì qualcosa faccio, mi diverto, più che altro, faccio un tempo, eccetera, eccetera. Ciao, ciao, vai, passo Marco per i saluti, vai Marco. Eia, scusate, mi ero allontanato un attimo, ciao che sta chiudendo, tra l'altro sto mangiucchiando qualcosa. Buona serata e alla prossima. Fate girare Antonè. Io vi faccio girare a chi c'è rimasto, che non secondo Giù, adesso controllare Gian Piera, poi al limite gli arriveranno fra poco, però finito. Adesso faccio mangiare e poi la medicina e la polizia in salto. Ripetete la Giulia un secondo, là. Dammi una 4 ore 20 minuti, faccio il mio dovere e poi salgo. Quando sei lui tranquillo, io a mangiare, purtroppo c'ho questo cazzarlo finché è vivo e quindi me lo devo sopportare. Ma so che... È registrato, è vero. Sì, io credo, è bene lui, vero? Ci mancherebbe, se non lo fai tu che lo fai. Va bene così, Antonio. Sì. Avanti, ecco. Ok, ciao Giulio. Giulio è in compagnia di Marco e Antonello che ha appena chiuso e anche Marino. Anche Antonello non l'ha chiuso, è rimasto in San Marco, ma Marino ha chiuso. C'è Marco e c'è rimasto. Ma c'è un buco nell'altro perché lui a quest'ora sta parlando. Non sai che l'altro giorno, o Giulio, ho sentito una persona di propagazione e ha il suo stesso modo di parlare così. Lo stesso modo di esprimersi eccetera ed era tutto dalla Svizzera e ha detto ma che sia Giugni quello che intanto viene qui in Sardegna per le ferie, non è che è quella Giugni? Ma Eugenio ok Giugni dai così dovrebbe essere a posto perché lo strumento mi segna la qualità migliore così per cui dimmi se mi senti bene così, va bene così. Ok, Johnny, stavo appena rispondendo alla al telefono. Sì, e beh, tu puoi pagare il satanese, il problema non è che io ho il satanese, per cui. Oh, Johnny. No, sì, evidentemente il microfono era troppo alto, ma adesso, o meglio, era troppo vicino. Mi sono allontanato, anche se l'ho rimasto, l'ho lasciato sempre allo stesso livello. Però sto guardando l'ago della trasmissione, appunto, che mi segnala quando la LC è troppo forte. Ma va bene così, dai. Ti mando qua di Marco, vediamo un po' se può mollare un attimino la forchetta. Avanti Marco. Sì, l'ho sentito l'amico, ma credo fosse uno scherzo di Eugenio, ma invece sembra un'altra persona, da. Va bene, un saluto da Marco di Sassari, e io devo finire di mangiare, Giulio, dai, cercherò di fare in fretta, poi se già lo sai com'è la regola, no, ritieniti salutato se non rientro, ok? Ok Marco, dai, sì, no, i giorni dalla, tu lo sai, lui è freddo, però la sua vita se la sta facendo in Svizzera, perché ha lavorato lì, ha la famiglia lì, per cui magari un altro momento che mi sentite te lo potrà spiegare lui, quindi ogni quanto te lo posso spiegare io. E tutti gli anni viene a farsi le figlie con la Sardegna e giustamente entra in frequenza, così almeno ci sentiamo, ormai lo conosciamo dal timbro di voce, eccetera, eccetera. No, l'altro giorno ho sentito uno che parlava allo stesso modo, c'è la propagazione, e come era della Svizzera questa persona che ti sto appunto dicendo, e avevo pensato, ma che sia Giulio, ma c'era troppo sopravvolazione, c'erano dunque non lo posso nemmeno chiamare, evidentemente non era nemmeno lui, comunque avanti Giulio. Carmelo vocalmente era un po' suria, sì, certo, perché aveva il suo modo di parlare, anzi ti dico di più, quando il finalino diceva KK come te, lo so adesso c'è un sistema lì della Svizzera per fare il finalino in questo modo, ma anche il tiro di voce, eccetera eccetera, il modo di esprimersi, guarda, tu non mi crederai, però ti posso garantire che l'avevo quasi scambiato per te, solo che io non ho potuto fare chiamata, perché c'erano tante di quelle sovrapposizioni con dei segnali grandissimi, per cui no, non era possibile entrare. No, mi stai dicendo che no, non eri tu evidentemente, però almeno vocalmente, guarda, è tutto un tuo sogno. Ok Giulio, sì, beh certo, è ovvio, poi finisce le figlie se rientra a domicilio, questo è più che normale, no? Sì, va benissimo così. E qua ti posso dire che ormai per questo non c'è più nessuno, tu l'anno scorso me l'avevi già detto, quindi in Svizzera non c'è più nessuno al barattino, solo qualche camionista così di passaggio che si sente, me lo ricordo, queste frasi che mi avevi detto. Anche qua mi sa che sta facendo la stessa fine, anzi, quasi totalmente assente la gente dalla frequenza. Oggi non lo so come mai, qualcuno ha avuto voglia evidentemente di farsi sentire, allora ci siamo sentiti, ma tutta la settimana, ad esempio, io faccio chiamata la sera, ma non c'è mai nessuno, difficilmente sento la risposta o il giorno. Ok Giulio, beh certo, beh io però prima sempre la famiglia, soprattutto quando c'è da andare a tavola, è ovvio che ci si stacchi dal baracchino, certo. Ciao Giulio, grazie per essere entrato a salutare, spero di sentirti ancora, magari non so, adesso tu ritornerai in Svizzera, e magari il prossimo anno quando ritornerai in fine, non lo so, fatti sentire. Siamo qua, salutone a te e al tuo collega familiare, dai, ciao Giulio, un abbraccio, ci sentiamo, ciao, mi ha fatto piacere di sentirti, ciao, ok, ciao Giulio, alle prossime, ciao. Ciao Marco, io ho chiuso, non so se ci sei ancora. Sì, sì, ero all'ascolto, pensa, questo amico adesso sta cenando, io sto finendo di pranzare, noi non riusciamo da quella situazione. Poi questa situazione di caldo, un po' mi sveglio tardi la mattina, è proprio ammorbante, mi questa. voglia di alzarti, ti sordisce un po' questo caldo, e quindi, oh mamma è peggio di me, mamma ce l'ho a mangiare alle 8:30, ma come si fa e poi cenare a mezzanotte? E non c'è insomma volontà da parte di nessuno dei due migliorare però. Che te devo dire Giulio? Va bene, mi faccio capire se stai chiudendo, dai. Mi ha fatto piacere che sei entrato, visto che certi giorni c'era proprio il nulla, nulla. Ma neanche sul 20, non ho sentito niente nemmeno sul 20. Non so se qualcuno stava entrando in PMR, perché qua ho trovato tutto. Ogni tanto metto un portatile, raramente, ma no. Non c'è tanto, dai. Ok Giulio, dai, buona serata, buon tutto. Ci sentiamo alla prossima, dai. Ok, ciao Marco, ciao. Grazie per la chiacchierata. Sì, lo so, ma io ieri, ad esempio, ti ho chiamato 5-6 volte. E anche i giorni passati, sempre, però non c'è mai nessuno risponde. Infatti ti ho chiamato proprio col tuo nome. Per cui sono praticamente o non vieni a casa o ce l'avevi spento, non so. No, riguardo al PMR, io un paio di giorni fa ho parlato con Battisio, con Gio Maria, e Sole, mi sembra, Sole Squalo, quindi ho chiacchierata in 10 minuti e poi ho chiuso, perché avevo delle cose da fare, per cui, anche perché ormai era già tardi, era già più o meno quest'ora mi ha ricicla, per cui no, tanto prima delle 7 non entra mai nessuno. Bravo, ciao Marco, salutami di alle prossime, dai, con buon pranzo, non ti dico buona cena, ti dico buon pranzo, perché ti stai aspettando, ma io tra un po', tra un quarto d'ora, anch'io sarò a tavola, dai, ciao Marco, alle prossime, ciao, grazie. Ciao Giulio, alle prossime, dai. Domani se non vado al mare sarà il 27, dai. Ok.